Noi facciamo tarantella, tarantella, va campà, ma non so che tarantella vostra che sti cace, suoniamo, ci cantiamo, la ballamme, mano, campalamme, tutta cosa sta cagliando già. Quando la musica non è buona è assai difficile a ballare, ma con chi sti su natura, rimma tu con mamma fa. Ma chi non è barcatella, va in vacanza alle Seychelles, sotto il fuggio e mattonella, magna magna e bustarelle. La patenza è spugliarella, fanno i festini, rinde ville, se pazziene qua gli uccelle. Se trapianta nei capilli, buchinare la cannella, vanno tutte cose belle, cravate marinella, champagne che darà, latticine e mozzarella, vanno tu ne spugliatelle, che canzone rapicella. Fanno i tuffa con fanille, noi facciamo e tarantelle, tarantella va campa. Cantamos la palabra.